Capitolo 2. Sotto la cupola verde di una betulla colossale, due pianoforti a coda di legno nero attendono le dita che li suoneranno. Gli strumenti si stagliano su un tendaggio rosso, innalzato nel giardino con pali e corde. Bogdanov avanza sul prato. Quando è stata l'ultima volta che ha messo piede lì? Sebbene sia tra i fondatori del Prolet Cult, non lo frequenta più da tempo. Dietro il sipario si erge la villa di Arseni Morozov, una gigantesca torta di panna e meringa con torrioni in stile moresco e fregi scopiazzati dall'architettura portoghese. In un vecchio romanzo di Tolstoi, il protagonista la definisce un palazzo stupido e vano eretto per una persona stupida e vana. La frase si è dimostrata vera per tre quarti. 9 anni dopo la pubblicazione, il proprietario si sparò su un piede per provare agli amici di poter resistere al dolore, grazie agli insegnamenti di una disciplina orientale. Morì, invece, di setticemia. Quanto alla sua magione, è idiota in senso etimologico, come lo è chi non è in grado di vivere insieme agli altri, perché sempre deve farsi notare e attirare l'attenzione fino ad apparire ridicolo nello sforzo. Tuttavia, grazie alla rivoluzione, la casa di Morozov si è salvata dall'inutilità ed è diventata la sede del Prolet Cult di Mosca. Le poltrone, di fronte al palcoscenico, sono tutte occupate, tranne una. Prima di sedersi, Bogdanov scruta i volti dei membri della giuria. Quelli che riconosce sono quelli che si aspettava di trovare. Gli altri 6 sono musicisti operai delle principali fabbriche moscovite, chiamate a esprimere un giudizio genuinamente proletario sulle 3 opere in gara. Bogdanov fa appena in tempo a stringere le mani, a dimenticare qualche nome e ad accomodarsi, che già il commissario per l'istruzione raggiunge il centro della scena, davanti ai 2 pianoforti, per officiare la liturgia dei saluti e del discorso inaugurale. Pizzetto e calvizie alla Lenin, corporatura staliniana e occhialini come Trotsky. Più invecchia, più Anatoly Vasilievich Lunacharsky incarna anche nell'aspetto l'equilibrio fra frazioni. Quando stava ancora da una parte sola, condividevano inchiostro, pensieri e battaglie, nonché l'avversione di Lenin. Per una 20ina d'anni sono stati anche cognati. Adesso è sposato con un'attrice, che da scandalo con i gioielli che indossa. Troppi per una donna sovietica. Ci sarà anche lei? L'occasione non è abbastanza mondana. Col tono di chi propone un brindisi a un pranzo di famiglia, il buon Anatoly spiega quello che tutti sanno. La sezione musicale del Prolet Cult di Mosca deve proporre un brano per il decennale della rivoluzione. Vista l'importanza dell'evento, si è deciso di scegliere il compositore con un grande concorso, del quale questa mattinée è la tappa finale. Mentre un raggio di sole si riflette sulla sua testa pelata, il commissario ricorda i risultati dell'organizzazione nel campo della musica, del teatro e del cinema. Proprio in questi giorni, Sergei Eisenstein, vecchia conoscenza di tanti proletcultisti, è impegnato nelle riprese di un lungometraggio sull'Ottobre, prodotto dal governo con il più importante finanziamento mai elargito per una pellicola. Lode dunque al Prolet Cult, che in soli 10 anni ha dato un contributo determinante alla cultura sovietica. L'encomio suona come un epitaffio. Eppure, anche Anatoly ha partecipato alla fondazione del Prolet Cult, per spingere gli operai a inventare un'arte nuova, a superare l'individualismo e a piantare i semi della futura collettività umana. Ridurre tutto questo a un contributo, per quanto determinante, alla cultura sovietica è una medaglia di consolazione. Anche il riferimento a Eisenstein non è proprio lusinghiero. Il regista ormai si è allontanato dal Prolet Cult e il suo esempio suggerisce una parabola ideale, dall'arte proletaria al cinema di propaganda, dall'autonomia creativa all'opera su commissione del governo. Al contrario, il Prolet Cult è nato per restare indipendente. Proprio Lunacharsky sosteneva che i lavoratori dovrebbero avere 4 organizzazioni distinte: il partito per la politica, i sindacati per il lavoro, le cooperative per l'economia e i circoli per la cultura. Questo lo scriveva ai tempi del governo provvisorio, Poi al governo c'è andato lui e nel giro di 3 anni il Proletkult è diventato uno dei tanti cenacoli dipendenti dal suo ministero. Lodi quindi anche a Nadezhda Krupskaya, seduta alla destra di Bogdanov, oltre la poltrona vuota del commissario. Come direttrice del Comitato Centrale per l'Educazione Politica, la vedova più illustre del paese ha saputo indirizzare i tanti circoli culturali, evitando le gelosie e stimolando la collaborazione reciproca. L'applauso di molte mani saluta la fine della prolusione ministeriale e l'ingresso dei due pianisti, elegantissimi nei loro tight grigi. I musicisti sistemano gli sgabelli e si preparano a suonare, schiena contro schiena, come in un duello tra gentiluomini armati di pistola. Senza un cenno d'intesa, alzano le mani dalle ginocchia e le posano sui tasti nello stesso istante. Le prime note escono all'unisono, poi ognuno sviluppa la propria melodia con volumi e altezze diverse. Quello a destra propone il motivo principale, l'altro esegue un contrappunto. Dio salvi lo zar, l'inno imperiale. Un'onda di gelo attraversa la fila dei giurati e irrigidisce le mascelle. Nonostante l'arrangiamento inusuale, tutti hanno riconosciuto l'odiosa marcetta. Uno dei musicisti operai si infila 2 dita in bocca e sputa fuori un fischio sdegnato. 5 uomini e 5 donne sbucano dalle quinte. Indossano tute da operai e tengono in pugno magli da fonderia, il manico appoggiato alla spalla destra. Avanzando come una tormenta, i 10 accerchiano i pianoforti, mentre i 2 virtuosi non smettono di suonare. Il primo colpo di maglio si abbatte sulla cassa del piano di sinistra, ma sotto il rumore di legno fracassato si distingue un clangore metallico. Subito una donna bionda affonda il suo martello allo stesso modo e ancora Bogdanov sente un suono di campana, cristallino e intonato, sovrastare lo schianto del rivestimento esterno. I 3 colpi successivi svelano il mistero. Sotto un primo strato di legno, i 2 pianoforti nascondono un'anima di ferro. Le mazze sfondano l'involucro tirato a lucido, colpiscono il metallo e lo fanno risuonare come un vibrafono. Le note compongono il tema dell'Internazionale. Lunacharsky si gira verso Bogdanov, la bocca nascosta dal palmo della mano. «Ricordi?» bisbiglia, «quando mi chiesero di bruciare tutti i pianoforti del paese?» Bogdanov annuisce. «Accadde nel foyer di un teatro, chissà quale, durante l'intervallo di uno spettacolo chissà di chi. Che anno era? Il 1921? Tempo e luogo sono ormai dimenticati, ma non il disagio di Anatoli di fronte all'autore della proposta. Quella che in bocca a chiunque altro sarebbe stata una battuta scherzosa, sulle labbra di Arseni Avramov era invece una richiesta serissima. L'uomo che aveva diretto il porto di Baku come un'orchestra, maneggiando 2 torce segnaletiche, armonizzando la sinfonia delle sirene antinebbia con i cori del pubblico e le mitraglie, poteva ben concepire lo sterminio dei pianoforti per liberare i russi dal giogo secolare dell'accordatura ben temperata. Anatoli se la cavò dicendo che, per ottenere un buon risultato, si sarebbero dovute amputare anche molte orecchie. La risposta ribadiva quello che entrambi avevano sempre rimproverato a Lenin: voler cambiare la società senza cambiare anche le menti degli individui. Non basta bruciare i pianoforti per dare il ben servito a 300 anni di musica e non basta consegnare le fabbriche agli operai per farla finita con il capitalismo. Lenin, a sua volta, le accusava di voler buttare alle ortiche la cultura borghese per costruirne dal nulla una nuova, in un paese selvaggio e semi-analfabeta. In realtà, il buon Anatoli non difese soltanto i pianoforti, ma anche i monumenti della Russia ortodossa. Nel novembre del 17 si dimise dal governo in seguito alla notizia che i bolscevichi avevano distrutto a cannonate la cattedrale di San Basilio. «Non posso sopportarlo», scrisse, «ma nemmeno posso fermare questa follia». Il giorno seguente ritirò le dimissioni, perché la notizia era falsa, ma non si risparmiò i versi di Vladimir Kirillov, poeta del Proletkult. «Nel nome del nostro domani, bruceremo i Raffaello, distruggeremo i musei, calpesteremo i fiori dell'arte. O poeta esteta, lava le rovine del tempio con le tue lacrime. Noi respiriamo una nuova bellezza». Sulla scena, I 10 operai cantano in coro l'ultimo ritornello, mentre vibrano colpi sulle carcasse nere dei pianoforti. I tasti sprofondano, i rivestimenti d'osso volano da ogni parte. Rispetto alla proposta di Avramov di bruciarli tutti, questa soluzione è più sofisticata. Le mazze distruggono ma svelano anche uno strumento nuovo. Tuttavia il brano non ha la minima speranza di vincere. Troppo violento, troppo nichilista. E poi quelle note all'inizio, l'inno imperiale, eseguite in pubblico, nel decennale dell'ottobre, potrebbero scatenare disordini prima che le 10 mazze entrino in azione. La musica termina. Applausi, inchini, stretta di mano del commissario al compositore e avanti prossimi. Al posto dei pianoforti, trascinati a fatica dietro il sipario, compare sulla scena un musicista armato di fagotto. Un primo suono, grave, si gonfia sotto le fronde degli alberi. Segue una pausa, eccessiva. Poi finalmente una nota, solitaria e più acuta. Un'altra pausa sproporzionata. Un'altra nota. Bogdanov osserva lo strumento. Qualcosa non va. Ha una sordina montata all'estremità, così che il suono esce smorzato e l'esecuzione è più faticosa. Dalle quinte spunta un secondo fagotto che interviene subito dopo il primo, ma il volume della musica rimane basso e le pause più lunghe della melodia, che muore e rinasce ogni volta. Giungono un terzo fagotto, un quarto, un quinto, ognuno con la sua sordina. Dopo un paio di minuti la formazione si fissa in un ottetto. Il volume aumenta e i silenzi vengono colmati. Il lavoro collettivo ha permesso di superare gli ostacoli dell'ambiente. Ora la musica viaggia da uno strumento all'altro, ma inciampa in continue dissonanze. Ogni fagotto sembra suonare per conto suo. Eppure, piano piano, senza soluzione di continuità, la cozzaglia di suoni si tramuta in un'armonia. I musicisti si passano il testimone sempre più veloci e in breve è come avere davanti un unico strumento, alle prese con un solo spartito e con un timbro più simile a un violoncello che alla somma di 8 fagotti. Quando più attività si combinano tra loro e le proprietà dell'intero differiscono da quelle delle sue parti, esso si definisce sistema organizzato. Quella strana formazione di 8 strumenti uguali ha appena illustrato con la musica uno dei principi della tectologia, la scienza dell'organizzazione. Del resto, qualunque fenomeno può essere descritto in termini tectologici, che si tratti di cellule, di suoni o di formiche. Bogdanov è abituato a spiegare ogni fatto con le leggi universali della scienza che ha inventato. Furor tectologicus lo chiama. Sono organizzato, dunque esisto, gli piace dichiarare, imitando Descartes. Ma ecco un altro principio tradotto in musica. Le attività di un sistema si congiungono grazie a un elemento comune detto ingressione. Gli 8 fagotti, dopo l'iniziale cacofonia, sono riusciti a trovare un'ingressione, cioè il tempo e la tonalità comune, la sequenza di accordi e di scale che adesso regola il loro scambio e lo rende sistematico, quindi armonioso. Nel caso della società, l'ingressione è il lavoro. Gli esseri umani si uniscono per dominare l'ambiente con minor sforzo, mentre il mercato, con i suoi interessi contrapposti, è un fattore disgregante, una disgressione. E infatti il complesso mette in musica anche quella, raggiungendo un'impressionante velocità di esecuzione. L'aumento del ritmo costringe all'errore un primo fagottista, poi un secondo. Sono proprio l'ultimo e il penultimo che si sono aggiunti alla formazione e, dopo un altro errore a testa, si arrendono, appoggiando lo strumento tra le gambe. Il terzo a ritirarsi è l'esecutore entrato per terz'ultimo e così via, a dimostrare che quelle cadute non sono veri errori, ma inciampi previsti dallo spartito, in ordine inverso rispetto all'ingresso dei musicisti sulla scena. La stabilità di un sistema è determinata dalla più instabile delle sue parti. Un'orchestra non può suonare un brano che sia troppo difficile anche per uno solo dei suoi elementi. Allo stesso modo, la forza di una catena è data dalla resistenza del suo anello più debole, la salute di una società dal malessere degli ultimi. Ora, soltanto un musicista insiste a suonare. Dopo 3 scale solitarie, velocissime, il sopravvissuto si ferma sull'ultima nota e la espande in un lungo vibrato. Subito i compagni riportano gli strumenti alle labbra e si aggiungono con note sempre più acute, ottenendo questa volta l'effetto di un organo che esegua una maestosa polifonia. Un nuovo sistema, con una nuova ingressione. Bogdanov è lusingato dall'evidente omaggio alle sue teorie, ma gli altri giurati, che di certo non hanno colto il senso del pezzo, lo apprezzeranno lo stesso. Il rischio è che lo giudichino vacuo, un pacchetto elegante che racchiude il nulla, forma senza sostanza, una distinzione inutile. Belle sono le opere che tengono insieme una comunità, le storie che la rafforzano, la musica che congiunge le emozioni, il cinema che affratella un'intera sala. Lo sciame vibrante di suoni si estingue in un graduale smorzando. A giudicare dall'intensità dell'applauso, il pezzo non otterrà molte preferenze. Bogdanov si alza in piedi, entusiasta, ma un attimo dopo si rimette seduto. Il gesto potrebbe influenzare la giuria. Se piace a Bogdanov, meglio tenersi alla larga. L'ultimo brano in programma è una sinfonia per eterofono e canun armeno. Progresso e tradizione, elettricità e legno, futuro e passato. La miscela ha tutte le carte in regola per imporsi. La musica anche. Nel foglietto del programma è presentata come trascrizione di un canto dei pastori del Caucaso. Molti compositori si rifugiano nelle melodie tradizionali per evitare l'accusa di formalismo e decadenza borghese. I due strumenti si alternano nelle parti soliste ed accompagnamento, in una progressione che ricorda le danze di primavera, o meglio, una danza di primavera nella sala di comando di un'astronave. A tenere banco c'è la macchina sonora inventata da Lev Termen. Bogdanov ha già avuto modo di vederla in azione. La magia di uno strumento che suona senza bisogno di toccarlo è davvero magnetica. Le note escono dalle dita del musicista simili a carte da gioco dalle mani di un prestigiatore, come se nell'aria ci fossero corde invisibili, il fantasma di un violino sospeso fra le due antenne metalliche. E poi c'è il nome, eterofono, che tanto somiglia all'eteronave, la nave spaziale dei marziani di Stella Rossa. Nel suo romanzo, pubblicato quasi 20 anni fa, Bogdanov non ha descritto la musica degli alieni socialisti, ma quello potrebbe essere il loro strumento preferito. Difficilissimo da suonare, a quanto si dice, perché l'intonazione dipende dall'esatta posizione delle dita, senza l'aiuto di tasti, manici o fori. La ragazza alle prese con le due antenne dà l'impressione di essere cresciuta su Marte, con un eterofono come giocattolo d'infanzia, tanta è la dimestichezza dei suoi gesti. Per il resto, la sinfonia srotola i suoi 4 movimenti senza grandi sorprese, gradevole per quelle orecchie che Anatoly si rifiutò di amputare. Salutati i musicisti, la giuria si alza per raggiungere la stanza dove deliberare. Sul sentiero di ghiaia, tra le aiuole del giardino, Bogdanov raggiunge Lunacharsky e Krupskaya, che discutono fitto. «La varietà è un'ottima cosa», argomenta la donna, «ma il concerto del decennale rischia di essere un popurì. L'Associazione di Musica Contemporanea ha proposto Ottobre di Rosvalek, oppure la Seconda Sinfonia di Shostakovich. I musicisti proletari vogliono suonare la ciminiera, che stona con entrambe. I compositori rivoluzionari hanno scritto un pezzo per marcare la distanza dai proletari, mentre il Procol del Conservatorio vorrebbe gettare un ponte tra tutti quanti, ma finirà per scontentarli, con un genere ancora diverso». «E tu, Nadia?» si inserisce Bogdanov. «Quale preferisci?» La vedova sistema gli occhiali sul naso. «Non è questione di preferenze, Bogdanov. In uno stato socialista, l'arte non dovrebbe essere il risultato di interessi contrapposti. Dovrebbe fondarsi sulla coscienza delle masse e quindi le opere dovrebbero essere coerenti, non così slegate». «Ci vuole tempo», si affretta a dire Lunacharsky. «È naturale che in questi 10 anni siano nati tanti circoli. La cultura russa doveva liberarsi delle influenze precedenti. Forse la musica sovietica non è ancora matura per esprimersi con voce unanime». Bogdanov intreccia le mani dietro la schiena. «Quali auspici si nascondono dietro la teoria estetica?» Nadia Krupskaya gli fornisce la risposta. «È quello che penso anch'io», dice. «Al decennale ogni gruppo dovrebbe organizzare il proprio concerto. Non ha alcun senso mettere tutti insieme. Ma dal prossimo anno bisogna superare la frammentazione. l'Unione Sovietica dovrebbe dotarsi di un'unica associazione di musicisti e lo stesso per gli scrittori, i registi di teatro, i pittori. Il rischio, altrimenti, è ritornare a una creatività individualista, fine a se stessa, che brucia per la smania di distinguersi. Pienamente d'accordo, interviene Bogdanov, l'unica associazione che dovrebbe rimanere in Unione Sovietica è l'Unione Sovietica stessa. Anche il Partito Comunista dovrebbe dissolversi. Che senso ha un partito quando l'interesse del popolo è garantito dallo Stato? È un doppione inutile, un relitto della storia. Lei non risponde, disorientata dall'apparente serietà di Bogdanov. Si accorge che uno dei musicisti operai le sta passando a fianco e coglie al volo l'occasione di cambiare interlocutore. Bogdanov sente una presa sul gomito che lo invita a rallentare. Anatoly. «Ci tieni tanto a farti notare», lo rimprovera l'ex cognato. «Tra vecchi compagni», si schermisce Bogdanov. Ascolta lo scricchiolio dei passi sulla ghiaia. Un rumore piacevole, concreto. «La verità è che sei troppo narcisista per riuscire a goderti un concerto», ribatte Lunacharsky. «L'idea borghese dell'arte, come piacere puro, non mi appartiene», protesta Bogdanov con finto candore. Lunacharsky conosce bene quell'atteggiamento e non commette l'errore di innervosirsi, anzi, ostenta indifferenza. «È un peccato che tra le tante scienze che padroneggi non ci siano la politica e la diplomazia». Bogdanov incassa la frecciata. «Puoi stare tranquillo, non ti rimprovereranno per aver invitato quel testardo di Bogdanov». «Sei troppo intelligente per fare la vittima, Sasha», sentenzia l'altro in modo paternale, «e comunque non sei credibile». «Lo dice il ministro dell'istruzione», sibila Bogdanov. «Quando qualcuno ha ripreso le mie idee, hanno gridato al complotto e mi hanno sbattuto in galera. O te lo sei dimenticato?» «Sai benissimo che è stato un equivoco, durato 5 settimane e mi è costato un infarto», conclude Bogdanov. Il battibecco sta diventando noioso e ancora Anatoly non gli ha detto cosa vuole da lui. Ormai sono giunti al portone della villa. Lunacharsky pare tentato di varcare la soglia e lasciare che la discussione resti sospesa sull'erba del giardino, ma poi tocca ancora il gomito di Bogdanov. «Ascoltami, Sasha. Lenin è stato più indulgente con me che con te, d'accordo, ma lui è morto e non mi pare proprio che tu possa lamentarti. Dirigi un istituto medico importante e sei forse l'unico uomo in tutta l'Unione Sovietica ad avere un ruolo del genere senza essere iscritto al partito. Tu non sei un reietto, caro mio, anche se ti piace vederti così. Sei un privilegiato e dovresti chiederti quanto potrai ancora approfittare di questo privilegio». Parla a bassa voce adesso, un bisbiglio sputato fuori con rabbia. È il rancore di chi l'ha sfangata e vuole elargire consigli a chi ha fatto scelte diverse per convincersi che non esistono alternative. «Insomma, dovrei ringraziare il vecchio compagno Koba?» dice Bogdanov senza astio. «Dovrei dimostrargli riconoscenza, schierandomi dalla sua parte? Perché se Bogdanov sta con lui, allora l'opposizione sembra meno compatta. È per dirmi questo che mi ha invitato qui?» Lunacharsky lo sbircia attraverso le piccole lenti ovali che mandano riflessi violacei. «È un buon consiglio. Fai come credi». Pronunciate quelle parole, il commissario si slancia dentro la villa e si mescola al resto della giuria. Bogdanov lo segue con curiosità annoiata per ascoltare con quali professioni di voto il brano per Eterofono e Canun vincerà il concorso della sezione musicale del Proletkult di Mosca.